24 mattino. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:22 minuti. Che succede nel Partito Democratico dopo le primarie di Genova vinte da Marco Doria? Saluto il sindaco di Genova, Marta. Buongiorno. Buongiorno, Marta Ipazia Vincenzi, eccoci qua. Letto i miei tweet. Eh sì, tutta Italia insomma oggi riportano i suoi tweet. Intanto chi è che l'ha uccisa come Ipazia? Perché si è paragonata a Ipazia? Sì. No, io ho detto che volevo dire un'altra cosa, tanto perché a Genova il Festival dell'Eccellenza Femminile a cui abbiamo dato vita in questi anni è intitolato Ipazia, ecco. Che è un motivo anche molto locale. E poi perché le difficoltà a riconoscere l'indipendenza, e io dico anche l'intelligenza delle donne, è una difficoltà che perdura. Però al solito l'establishment fatica a riconoscere, ma mi limitavo a considerare che andava peggio un po' di millenni fa, ma avrei voluto parlare di Rosa Luxemburg o di tante altre. Senta, ma lei con chi ce l'ha? Perché ieri è stata presa da questa mania di twittare. Io twitto regolarmente. Sì, ho capito, ma ieri ha creato un terremoto, no? Ce l'aveva un po' con tutti, faceva battute. No, io non ce l'ho, io cerco adesso di continuare a offrire le mie valutazioni, perché sono stati anni difficili e perigliosi ai quali io mi sono dedicata, pensando di avere dentro un'urgenza, perché io me ne stavo con molto agio in Parlamento europeo, sono scesa a fare questa cosa a Genova perché la amo moltissimo e perché sentivo proprio l'urgenza di una città che sta morendo e che ha bisogno di, sta morendo perché delle sue situazioni, la sua condizione produttiva, ma soprattutto per la sua situazione demografica. Sentivo l'urgenza di rendere più veloci alcuni cambiamenti. L'ho fatto, ho pestato molti piedi nel farlo, come sempre quando si fanno delle scelte, ho anche giocato molto con senso personale. E allora adesso il mio problema però è salvare la creatura, no? Ecco, salvare Genova. Ma perché? Genova attraverso le scelte che ho fatto, siccome io sono, l'avevo già fatte le primarie, io sono favorevolissima alle primarie, non è un problema di tecnicismi, ma siccome a queste primarie Genova è andata senza confrontare programmi, ma solo mettendo delle facce. Il sindaco in carica ha giocato sempre, in trasferta, perché tutti gli altri candidati semplicemente dicevano che avrebbero fatto meglio di come aveva fatto lei. Ma senta, ma lei ha sentito Bersani da ieri? No. Evidentemente no. Bersani aveva altro da fare. Cioè, ce l'ha con Bersani? No, non ce l'ho con nessuno. Io mi sento parte integrante di un della storia politica. Quando parlo sempre come autocritica, semmai, non parlo mai di loro, parlo di noi, però bisogna che qualcuno le cose chiare le dica, io mi ritengo tra coloro che l'hanno sempre dette e che qualche volta gli è toccato di fare la fine. Ma voglio dire, perché qualcuno dice banalmente ci sono state delle primarie e lei e la Pinotti avete perso nei confronti invece del vincitore Marco Doria, cioè non è una lettura banale, ma a volte le cose banali vanno così? Certamente una lettura, è l'unica lettura che si può fare di ciò che è avvenuto. Il problema è che siamo arrivati a questi primari con un partito che non mi ha mai sostenuto nel corso del mio mandato e che ha pensato da solo di fare le primarie, no, ho mandato del sindaco per far vincere un'altra persona del Partito Democratico che di più rappresentava le cose che ha perso anche lei. In queste spaccature del Partito Democratico si inserisce giustamente chi in modo ingenuo e forte, non facendone parte, può dire: sai che ti dico, andate tutto al diavolo, ci avete stufato. Cioè lei voleva un candidato alle primarie, ci voleva un candidato del PD, insomma. Ma più che altro io penso che si dovesse capire che cosa il PD, e questo è il mio crucio. Il PD deve capire cosa vuol fare grande. Io ho fatto un piano urbanistico che ho adottato. Questi altri candidati intervengono contro un piano urbanistico che è stato adottato con i voti anche del Partito Democratico, della maggioranza del Consiglio Comunale. Ho fatto la scelta di sbloccare la città impegnandomi sulle infrastrutture, perché Genova, se non si sblocca, se non ha un'auto di rete, muore. Il candidato che ha vinto ha detto che lui non le vuol fare quelle infrastrutture. Ma secondo lei, è assolutamente legittimo. Ma dove sta il PD? Appunto, ma secondo lei il PD l'ha capito cosa farà da grande, no? Sì. Non ancora, questo mi preoccupa e a questo mi dedicherò con impegno. Ecco, perché che farà Marta Vincenzi adesso? Il sindaco? Certo, continua a fare il sindaco quando non ci sono le elezioni vere. E anche questo però è un problema, perché io sono assolutamente d'accordo che non è più possibile fare a meno dello strumento delle primarie, francamente, poiché i sindaci stanno al massimo due mandati, o si costringe un sindaco a fare delle azioni di breve periodo, e sarebbe terribile, o gli si deve dare la possibilità di, diciamo, avere un respiro di due mandati, perché questo la legge dice. E quindi sono gli elettori che devono andare. Sa, io sono stata eletta con 220.000 voti. Insomma, lei voleva un po' più di appoggio dal suo partito. No, io volevo che il mio partito... No, però questo concetto glielo voglio finire. Non è corretto che una persona eletta con migliaia, centinaia di migliaia di voti venga a un certo punto stoppata per 11.000 voti, anzi meno, perché poi se si fa la differenza. Ma sa, anche il presidente degli Stati Uniti dopo 4 anni deve ricercare il voto degli Stati Uniti. Dopo 4 anni non fa le primarie. Ah, beh, questo è vero. A fare le elezioni, che sono le cose che bisogna fare. Questo è semmai il problema, è proprio l'esempio di Obama. Pensi un po' se Obama adesso gli avessero fatto fare le primarie. Mettendo di contro la Clinton, quest'altro. Secondo lei come ne sarebbe uscito? Insomma, dopo i pazzi a lei voleva essere un po' come Obama. Dopo Marta... Io ho sempre pensato a Obama, perché per questi anni, però sai, in che senso? Nel senso che nel piccolo come nel grande abbiamo vissuto uno dei periodi drammatici per l'economia e la società che il mondo abbia mai visto, questo almeno lo si metta in conto. Senta, due cose per concludere, un giudizio su Don Gallo, Melodia, cosa è il primo aggettivo che le viene in mente? È magnifico, il primo aggettivo è magnifico, il secondo però è narciso. Don Gallo ha appoggiato Marco Doria, ricordiamo. Assolutamente sì, e questo insomma, ha fatto una scelta. E l'ultima cosa, ma molti hanno detto, posso dire, un po' maschilista, però maschilista, anche maschilista Don Gallo. No, la scelta. Ah, la scelta maschile. Vabbè, ma non è, lei la pone molto su una questione di genere, cioè voglio io dire... Io sì, se permette, sono una donna. Ho capito, ma lui ha scelto, doveva scegliere per forza una donna, ha scelto... No, ma io riconosco in Don Gallo anche una propensione al maschilismo, perché io ne parlo da vivo di Don Gallo, quindi dico anche i suoi difetti, non faccio il santino come se non ci fosse. L'ultima battuta, molti hanno detto, ma come, ma il sindaco Vincenzi, dopo quello che era successo con l'alluvione, ricordo le polemiche, pensava di non pagare politicamente quella vicenda? Io pensavo di pagarla politicamente, per me è stato difficile, perché io dopo l'alluvione, anche se spero si sia capita che le responsabilità dell'alluvione risalgono proprio a quegli scempi del territorio a cui ho messo fine col piano urbanistico che ho fatto adottare, però a parte questa vicenda, io certo... Infatti ho chiesto al mio partito di presentare un candidato nuovo e giovane che riprendesse in mano le cose che avevo cominciato a fare e le portasse avanti. Però non è stato così, perché nessuno ha voluto farlo e perché c'era una candidatura già sostenuta da una parte del Partito Democratico consistente, che era quella della senatrice Pinotti, che non si è fatta da parte. Allora io ho difeso il mio lavoro. Va bene. La ringrazio, sindaco. Buon lavoro per quello che le rimane come sindaco e poi per il futuro. Come sindaco, ma poi lunga vita come impegno politico al mio partito. Grazie a Marta Vincenzi, sindaco di Genova. Ci fermiamo per la pubblicità e meteo, e poi vorreste sapere redditi e patrimoni di tutti i parlamentari? C'è una deputata che si impegna in tal senso. 24 mattino. Allora, c'è una parlamentare, l'onorevole Rita Bernardini, dei radicali, che si è adoperata affinché i deputati e i parlamentari possano pubblicare la propria situazione patrimoniale in maniera trasparente, redditi e patrimoni, sul sito della Camera. Oggi Libero titola: i patrimoni che la casta vuol nascondere. Solo un parlamentare su quattro, più o meno 224 parlamentari per ora su 945, hanno aderito a questa iniziativa. Ma è voglia di trasparenza totale o demagogia, populismo allo stato puro? Ne vogliamo discutere con l'onorevole Rita Bernardini stessa, che saluto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Saluto anche l'onorevole Straquadagno. Buongiorno Giorgio. Buongiorno Straquadagno, del Popolo della Libertà, e ben ritrovato. Senta, onorevole Bernardini, detto che le dichiarazioni dei redditi sono pubbliche di tutti, credo anche alla Camera, però bisogna accedervi coi giornalisti che una volta all'anno possono accedere a questi faldoni. Ci spieghi cosa c'è di novità e perché lei ha fatto questa iniziativa? In realtà ogni cittadino, ogni elettore italiano può accedere a queste dichiarazioni dei redditi, che sono obbligatorie per legge insieme alle dichiarazioni sulle spese elettorali. C'è una legge del 1982, la numero 441, che obbliga a questo tutti i parlamentari, e gli elettori possono andare a Montecitorio, insomma se abitano a Trento o a Canicattì, andare lì e visionare la dichiarazione dei redditi, gli interessi patrimoniali. E allora che necessità c'era di fare questo? Insomma, mi pare che sia un po' disagevole, visto che adesso c'è internet. Questo è vero. C'è internet, bisognerebbe mettere su un piano di parità tutti i cittadini italiani. Lo si fa in tutti gli stati europei, in tutti gli stati democratici, insomma, si va sul sito, dovrebbe essere obbligatorio. E invece siamo riusciti ad ottenere solamente il fatto che la dichiarazione possa essere messa dietro liberatoria dell'interessato. E molti hanno accettato. Io leggevo, per esempio, tra i leader più famosi, anche bipartisan, Bersani, Veltroni, Brunetta, Labonino, Maroni, Di Pietro, Della Vedova, Casini, Franceschini, Donadi, Granata. Insomma, questi alcuni di quelli che hanno accettato con una liberatoria di far sapere tutto, di fare la propria radiografia. Lei, Straquadagno, ha accettato? Straquadagno. Non l'ho chiesto e non desidero farlo. Non desidera farlo, perché? Cosa ci legge in questa iniziativa? Ma nulla di particolare, ma siccome è una facoltà, mi avvalgo della facoltà di non pubblicare. No, questo sì. Qual è il vantaggio per l'elettore? È interessante sapere quant'è la consistenza del mio patrimonio, se ho una casa, due o tre? Questo è rilevante ai fini del giudizio sulla mia azione politica? Per qualcuno forse sì, cioè vuole monitorare. Se qualcuno sa che c'è anche... che è interessante, ed è così interessato, si alza, va e c'è il faldone, va a consultarlo. Anche se è di Trento. Io credo che come... ci sia un eccesso di interesse su aspetti marginali della vita politica, cioè il fatto che noi siamo indicati al mondo intero come quelli che stanno lì per rubare dei soldi. Allora, se stiamo in questo filone e ci crogioliamo sopra o ci facciamo sopra una nostra constituency politico-elettorale, non facciamo un buon servizio alle istituzioni. Perché io sarei per un sistema di totale trasparenza se fossimo in una cultura di tipo americano. Lei quella sa cioè che... dove sì. Guadagnare e avere proprietà non è un merito. Non è una colpa, certo. No, è un merito. No, infatti... Invece, siccome da noi siamo... soprattutto noi parlamentari siamo indicati come persone che sono là per fare i loro interessi personali, ed è automatico il nesso tra il fatto che uno abbia una macchina di un certo tipo e che sia un criminale fiscale in questo paese. Allora io penso che un eccesso di pubblica esposizione abbia alimentato soltanto questa campagna. Senta, ma lo sa che c'è anche la commissione voluta dal ministro Patroni Griffi, abbiamo ospitato anche il magistrato Cantone che ne fa parte, che ha tra le varie proposte anticorruzione propone chi fa politica anche a livello comunale deve fino al parente di secondo grado far sapere la radiografia dei patrimoni. Sì, anche il mio collega senatore Lusi nella scorsa legislatura era favorevole a misure di questo tipo. Vabbè, ma non mi... che c'entra, insomma? Quindi, era così una notazione a margine. Infatti. Veda lei. Vabbè, ma guardi, che cosa? Non, che ho mai visto, non ho mai visto combattere la corruzione con strumenti di ipotetica penetrazione nelle informazioni che riguardano i presunti corrotti. Perché se uno è un criminale economico, sa benissimo come nascondere tutti o occultare le sue iniziative. Mentre invece succede, come è successo per esempio nel mio partito a Modena, che viene espulso uno che non c'entra niente nella revisione degli elenchi, o invece non vengono toccati iscritti pesanti. È una polemica di oggi. Sentiamo però, io volevo richiamare però su questo, onorevole Bernardini, per far vedere anche che certo, non ho preclusioni politiche. Però è interessante quello che lei dice, onorevole Bernardini, dice Stracquadagno, qui si alimenta un po' anche questa campagna, poi volere dire il sottinteso è siete tutti lì a rubare, quindi bisogna sapere tutto di voi. Ma guardi, non è un caso che sia stata varata quella legge nel 1982, cioè è stata varata proprio perché l'eletto, perché riguarda tutti gli eletti di ogni ordine e grado, sia completamente trasparente rispetto all'opinione pubblica, perché non viene messa online la dichiarazione di un anno, ma vengono messe le dichiarazioni dal momento dell'elezione fino all'ultimo anno, per cui si possono fare anche i paragoni via via. Certo che tutti possono imbrogliare, però il fatto che tutti possono controllare se uno imbrogli o meno, credo che sia un dato di trasparenza, di controllo, perché il cittadino deve controllare come si muove il proprio eletto, quello che lui ha scelto. E questo è il fondamento di ogni democrazia. E lo controlla anche così, cioè dice Stracquadagno e critica, lo controlla sapendo quante case ha, quanti immobili ha, se ha acquistato una macchina. Anche se per esempio da un anno all'altro ne ha venduta qualcuna, ha cambiato la sua macchina, sono controlli. Se uno non ha niente da temere, non vedo perché debba temere queste cose. Ma interessante, cose. Però mi faccia dire una cosa, perché poi le dichiarazioni se ne fanno tante. Lo stesso governo Monti, io ricordo che al momento del suo insediamento aveva promesso una cosa, che tutti i membri del governo spontaneamente avrebbero resa nota la propria dichiarazione. Stiamo ancora aspettando. Non è molto positivo. No, questo è vero, c'è da dire che c'è, credo, un sito, forse il giornale.it, che ha un counter anche da tot giorni, perché io ce l'ho qua l'articolo di novembre: i redditi dei ministri finiranno sulla rete, 19 novembre del 2011, questa dichiarazione del governo Monti. Ripartiamo da qui dopo il traffico, interessante, vorrei sapere poi il parere di Stracquadagno su quello che dice l'onorevole Bernardini. Insomma, magari un politico cambia la casa, cambia la macchina, è una forma di controllo sociale da parte degli elettori anche sapere queste cose. Allora, onorevole Stracquadagno, visto che l'esempio l'ha fatto lei, qualcuno aveva fatto notare che proprio il senatore Lusi, prima di fare politica, guadagnava, credo, o denunciava 40.000 euro, nel giro di 5 anni 300.000 euro, e lui ha detto, ho fatto una crescita professionale. Non è una giustificazione appunto del fatto che dire uno entra in politica e bisogna sapere tutto? Mi perdoni, i 300.000 euro che c'entrano con i 13 milioni di ammanchi dalle casse della Margherita? Nulla. No, niente. Perché non è che da lì abbiamo capito che il senatore Lusi maneggiava i quattrini del partito in maniera non trasparente. Che facendo politica il suo reddito è aumentato nel giro di pochi anni. Ecco, poi ognuno fa le considerazioni che vuole. Ma era un giovane avvocato quando ha iniziato a fare politica, è stato un avvocato di maggior successo più avanti. Questo non credo che sia legato alla sua attività politica. Ma in ogni caso, io non credo, anzi ho un certo terrore del controllo sociale dei redditi, dei patrimoni altrui, perché siccome queste cose, la fedeltà fiscale non è materia di discussione politica sui singoli, cioè non facciamo dei dibattiti sulle posizioni di ciascuno sul piano, nel suo rapporto fiscale con lo Stato, un'idea che tutti possano controllare il reddito del vicino di casa o del parlamentare o del consigliere comunale e fare eccezioni su questo o trarne conclusioni, a me pare una forma con cui si getta in pasto all'opinione pubblica qualcosa che non va gettato. Ma guardi, per esempio, qualche tempo fa... Io ripeto, se fossimo in un contesto culturale anglosassone, non ci sarebbero obiezioni da fare, perché non c'è la criminalizzazione della ricchezza che si sta avendo da noi. Ma mi scusi, però straguadagno, avere una macchina sportiva, sì, ed è dice sintomo, non solo è di sintomo. Curiosità. Lei non sa quante volte sulle mie dichiarazioni di redditi l'interesse e le mie dichiarazioni patrimoniali alla Camera, l'interesse è stato sulle auto che compravo o vendevo. Ma sì, ma perché siamo un popolo un po' così, guardiamo appunto, il vicino di casa. Siamo un popolo un po' così, non diamo l'offa a un popolo un po' così perché continui a essere così all'ennesima potenza. Però il fatto che, non so, Monti abbia appunto fatto questa promessa, poi per ora non l'ha mantenuta. No, le sto chiedendo questo. Il Libero fece che cosa? Una ricerca personale e scoprì, per esempio, che il sottosegretario Ciro Improta, credo, dei trasporti pubblici, ha 96 immobili. E sono andati a chiederglielo. Ma sì, ma infatti saranno fatti suoi, ma nessuno l'ha criminalizzato per questo. Ha fatto un'intervista al Corriere nel quale ha spiegato perché ha 96 immobili. Ma perché lui deve spiegare? Ma no, ma questa è una cosa stupefacente. Risponde a una notizia. Deve spiegare perché nella vita ha guadagnato, ha lavorato. Ma straguadagna, fa il giornalista qualcosa. Anche lei. Sarà una notizia se un sottosegretario ha 96 immobili? No, non è una notizia. Magari di taglio. Magari... Dov'è l'interesse pubblico dei suoi 96 immobili? Che potrebbe essere poteva essere il suo interesse non reintrodurre l'ICI, e invece il suo governo l'ha fatto. Il governo del sottosegretario Improta ha reintrodotto l'ICI facendo un danno al suo sottosegretario, e magari anche per rispondere a questo, cioè per dire che non ha perseguito i suoi interessi, interessi governativi. Allora, qual è il conflitto di interessi, per esempio, dei giornali e dei giornalisti nel fare queste campagne? Perché noi non sappiamo nulla delle dichiarazioni dei direttori dei giornali che lei ha citato? Vabbè, ma sì, sono tutte pubbliche, uno si può informare anche il direttore. Perfetto, quindi sono pubbliche come le mie, va benissimo. Vabbè, ma lei non vede un nesso, non il nesso politica uguale corruzione, ma politica uguale rischio di corruzione. Ci sarà un rischio di corruzione, certo, per chi fa politica, no? Il rischio di corruzione, no? Sa dove sta? Non nel fatto che si sappia o meno quanto patrimonio io posso avere accumulato perché l'ho ereditato, perché ho un'ottima professione, perché ho un'impresa o per qualunque altra ragione. Il rischio sta nell'arbitrio del pubblico funzionario. Se io posso decidere di una cosa in modo del tutto arbitrario, è chiaro che c'è un rischio di corruzione immenso. Ma questo è irrilevante che io dichiari al reddito, che io dichiari al fisco, sì. 10, 100, 1000. Sì. Anche perché lei pensa che i brevetti della corruzione si dichiarino al fisco. No, questo sì. E allora, parliamo di cose che non hanno nesso tra loro. No, ma... Se vogliamo seriamente intervenire sulla corruzione in Italia, dobbiamo modificare quelle leggi che danno al pubblico funzionario, non al politico, al pubblico funzionario, in qualunque ruolo esso sia, che sia il politico che decide, sia il pubblico funzionario che assegna la gara, un potere arbitrario totale. Sì, ma io credo che, onorevole Bernardini, vorrei una conferma su questo. Cioè, non credo che lei voglia con questa iniziativa sconfiggere la corruzione. Cioè, è in nome di che cosa? Di una trasparenza, voglio dire. Si tratta semplicemente di uno strumento in più. L'onorevole Straguadagno dovrebbe chiedere l'abrogazione di quella legge del 1982 che prevedeva una forma di pubblicità dei redditi adeguata al momento. Si prevedeva la pubblicazione su un bollettino. Ora, dal 1982... siccome l'accesso era previsto per tutti gli elettori, i mezzi di informazione sono cambiati. Adesso c'è internet, c'è il sito della Camera che prima non esisteva. Quindi o si cambia la legge oppure ci si adegua alla legge. Fra l'altro, mi faccia dire, sul sito della Camera ci sono, per esempio, gli interessi, lo stipendio dei parlamentari, no? Dei deputati, sì. E ci sono le varie composizioni delle voci. Io mi chiedo come mai sul sito della Camera non ci sia invece quale trattamento economico hanno i parlamentari, i deputati che hanno incarichi istituzionali. Dal presidente della Camera, i vicepresidenti, i membri dell'ufficio. Ah, perché quelli hanno un'indennità aggiuntiva. Non solo, ma quelli hanno un appartamento che gli viene dato, sì. Hanno la macchina blu, ma compresi i presidenti di commissione, i questori. Bisognerebbe mettere anche quello, lei dice, se a chi ha un appartamento. Queste cose non si devono scrivere, solamente del deputato, tra virgolette, semplice, deve essere indicato tutto, mentre per il deputato che ha altri strumenti, che secondo me sono anche giusti, che abbia a disposizione, però lo si mette. Non per si viene tutti a sapere. No, ma di questo intanto chi vuole camera.it, alcuni parlamentari, ripeto, 224 mi pare, hanno aderito con una propria iniziativa, cioè hanno dato la liberatoria, hanno pubblicato, ripeto, alcuni citati dai giornali tra i più famosi: Bersani, Veltroni, Maroni, Casini, Di Pietro, Labonino, Brunetta, Della Vedova, anche Bipartisan, andate a vedere se volete, per quel che riguarda patrimoni e redditi. Io intanto ringrazio l'onorevole Rita Bernardini dei Radicali e l'onorevole Giorgio Stracquadagno del Popolo della Libertà, con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, Miriam Lucchetti, no, Viola Bottoni, tutti qua in redazione, e il nostro alpino su tutti, alpino Peter Bescapè o Peter Bescapè, come volete. Vi rinnoviamo l'appuntamento a domattina alle 7:20. 11.500 euro netti in tasca per un parlamentare non credo che sia una cifra esorbitante. Tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma. Io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco a prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Energia per il tuo lavoro. Repower, l'energia che ti serve. Vi ha presentato 24 mattino.